Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Oggi non abbiamo il presidente Carlo Garofolini, che è in ferie, a cui facciamo ancora gli auguri, ma troviamo con noi Maria Grazia Cangemi. Benvenuta. Buongiorno. Allora, l'argomento che tocchiamo oggi è un argomento importante, magari insomma si vendono sempre meno case, no? Però bisogna stare attenti ai vari passaggi che si fanno nell'eventuale acquisizione di una casa che uno volesse fare. Esatto. Allora, dobbiamo riscontrare nell'ultimo periodo un aumento di richieste d'aiuto al nostro sportello sfratti e condomini per quanto riguarda le proposte d'acquisto. Cosa vuol dire? Io mi reco presso un'agenzia immobiliare per acquistare una casa, sì. Però ovviamente il primo passo è quello di visionare questo immobile. Quindi l'agente immobiliare mi porta a visionare questo appartamento piuttosto che, io lo trovo molto interessante e l'agente immobiliare immediatamente mi sottopone una proposta d'acquisto dicendo che non è per nulla vincolante, che serve soltanto per rafforzare un attimo l'interesse verso quell'appartamento e che mi obbligo un attimo a versare un deposito che comunque, se non fossi poi più interessato, mi verrebbe restituito. Nulla di più sbagliato, sì. Che nella proposta d'acquisto io mi obbligo in un certo senso all'acquisto dell'immobile. Lo dice la stessa cosa, proposta d'acquisto significa che io verso una cauzione perché sono assolutamente, esatto, interessato, no? Mi propongo come acquirente. La proposta di acquisto diventa vincolante nel momento in cui il proprietario dell'immobile viene a conoscenza di questa proposta e l'accetta. Uh-huh. In questo momento, essendo un atto recettizio, quindi vuol dire che assume efficacia al momento in cui viene a conoscenza dell'altra parte, diventa a tutti gli effetti vincolanti. Quindi la soluzione finale è una sola: o mi obbligo a sottoscrivere il preliminare di vendita, sì, oppure perdo il deposito che ho versato. Ecco, praticamente è successo questo, quindi a qualcuno, a qualche vostro cliente che si è insomma chiesto aiuto all'Adico, è successo proprio questa questione. Ha fatto una proposta d'acquisto pensando che poi di poter, esatto, tornare indietro. Rassicurato dal fatto che potessi in un qualsiasi momento ritirarla, ma insomma non è stato, perché il codice civile parla chiaro e anche il contratto, solitamente questi contratti sono anche abbastanza semplici da leggere, quindi l'invito nostro è quello di leggere sempre attentamente tutto quello che viene sottoposto, di non lasciarsi mai tentare o comunque raggirare dalle agenzie immobiliari, piuttosto che, perché ormai è lampante che la truffa è dietro l'angolo, mm-hmm, e che quindi insomma bisogna sempre prestare la massima attenzione e di guardare sempre con un occhio sospetto a determinate vicende. Ecco, in questo caso quell'assegno che è stato firmato potrebbe essere già anche riscosso. Nel momento in cui, allora, l'assegno viene consegnato all'agenzia immobiliare, sì, nel momento in cui vengono decorrono i termini per la sottoscrizione del preliminare di vendita, per esempio, io non ho nessuna intenzione di sottoscriverlo, mm-hmm, in automatico l'agenzia immobiliare consegna l'assegno al proprietario dell'immobile, il quale ha, ahimè, tutto il diritto di incassarlo. E qui con chi bisogna prendersela? Con l'agenzia, allora? Esattamente. Ecco, va bene. Quindi, insomma, abbiamo raccontato questi casi che possono in qualche modo capitare e che l'Adico giustamente ci segnala. Ricordo che c'è anche uno sportello che si chiama proprio Sfratti e Condominio, che esatto, è dedicato a tutte queste problematiche che sono connesse alla propria casa, alla gestione e anche all'acquisto, no? In questo periodo ci sono parecchi casi di questo genere? Sì, diciamo che in qualche mese ne abbiamo affrontati 3-4. Alcuni li abbiamo conclusi positivamente, poiché ancora l'accettazione da parte del proprietario non era avvenuta, quindi siamo riusciti un attimo a salvarci in corner, ma per altri è stato praticamente impossibile riuscire a risolvere la questione. Abbiamo comunque trovato un accordo con il proprietario dell'immobile, quindi anziché trattenere l'intero deposito siamo riusciti un attimo a trovare un accordo e a trattenere in una parte. Ho capito, vabbè. E allora, cari amici di Blu Radio Veneto, se vi capita, state per caso decidendo, pensando di acquistare casa, ricordatevi che potete chiedere aiuto allo sportello Sfratti e Condominio dell'Adico. Io ringrazio Maria Grazia Cangemmi per essere stata con noi, per averci raccontato questa vicenda. Grazie a voi. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.